Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Continuiamo a parlare di un'eventualità che potrebbe diventare presto una necessità: lo stoccaggio di grandi quantitativi di CO2 atmosferica per evitarne l'emissione ancora una volta appunto in atmosfera. Tra gli scenari presi in considerazione dai ricercatori c'è anche lo stoccaggio della CO2 all'interno di capsule di vetro che potrebbero poi essere conservate nelle profondità marine, dove potrebbero giacere indisturbate per un tempo indefinito, fino realisticamente anche a essere inglobate, diciamo, nell'arco dei secoli dai sedimenti che poi alla volta si accumulano sui fondali oceanici. Ne parliamo con il professor Mario Grosso, che è già stato nostro ospite in quanto responsabile scientifico della ricerca Desarc Mare Sanus per il Politecnico di Milano, con cui recentemente si è fatto il punto su questa tematica, diciamo, della cattura di CO2 dall'atmosfera, relativamente in particolare al contesto del Mar Mediterraneo. Buonasera Grosso. Buonasera a lei, buonasera. Allora Grosso, qui l'idea è di sequestrare in qualche modo la CO2 e poi c'è il problema di dove metterla. Di solito, no, si pensa ai vecchi giacimenti di metano, per esempio, o formazioni geologiche di questo tipo. Qui invece si parla di utilizzare delle capsule di vetro. Ci spiega un po' meglio il processo nelle sue linee generali? Ma se questa idea nasce innanzitutto per avere un'alternativa, quindi non vuole essere necessariamente in competizione con le altre tecnologie a cui lei ha fatto cenno. Abbiamo bisogno di stoccare enormi quantità di tonnellate di CO2, parliamo di miliardi di tonnellate all'anno in prospettiva futura, e quindi servono diverse opzioni tecnologiche. Lo stoccaggio sotterraneo nei fondali oceanici è ad esempio disponibile nel Mare del Nord, c'è una grossa iniziativa in atto da parte della Norvegia in particolare, però ci sono altre realtà dove non ci sono condizioni altrettanto favorevoli. E quindi noi ci siamo inventati l'idea di fare uno stoccaggio sottomarino all'interno di capsule di materiale vetroso. Ecco, più o meno come funzionerebbe il processo? La CO2 deve essere prima di tutto catturata, evidentemente. Poi? Certamente, la CO2 deve essere catturata, viene portata in forma liquida a un'elevata pressione, intorno ai 100 bar, e poi viene imbottigliata, immaginiamoci come se fossero grandi damigiane di vino di forma sferica. A questo punto queste vengono chiuse, sigillate, e con un apposito sistema, con una condotta sottomarina abbastanza standard, che può essere simile a quelle utilizzate nell'industria petrolifera, vengono depositate in maniera controllata sui fondali oceanici, dove la pressione uguaglia la pressione interna della CO2. In questo modo il vetro non deve lavorare in condizioni di stress particolarmente elevate, possiamo farlo anche piuttosto sottile. Certo, fa in modo la pressione diciamo idrostatica dell'acqua compensa quella della CO2 all'interno di queste capsule di vetro. Ecco, parliamo di queste capsule di vetro, perché voi avete studiato a fondo la forma ottimale, lo spessore ottimale. Che cosa ci può dire? Sì, si era partiti dall'idea di fare proprio una capsula, un po' come le pastiglie, quindi una sezione cilindrica e due semisfere agli estremi. Poi, confrontandoci con i nostri colleghi di ingegneria strutturale al Politecnico, che hanno fatto appunto le analisi strutturali, ovviamente è venuta fuori la proposta di farle di forma sferica. Certo. In questo modo si riesce ad avere, da un lato, un maggiore volume contenuto rispetto alla quantità di materiale necessario per fare la capsula, e dall'altro una migliore distribuzione degli sforzi. In questo modo è possibile pensare a spessore dell'ordine di un paio di millimetri, che significa pochissimo, quindi. Esatto, impatti molto bassi per la produzione del vetro. E certo, perché se no si produce più CO2 a fare le capsule di quella che si riesce a imbottigliare. Ecco, questo aspetto l'abbiamo valutato e la penalizzazione è circa del 10%. Okay. In realtà, rispetto a quello che possiamo stoccare, è solo il 10% quello in più che viene emesso dal processo di produzione delle capsule. Che vengono anche zavorrate, giusto? Sì, dobbiamo prevedere una certa quantità di sabbia all'interno per permettere una velocità di discesa adeguata, non troppo elevata e non troppo bassa. E non troppo bassa, perché insomma affondino ma non vadano a cozzare quando arrivano sul fondo. Teniamo conto che fino a non molto tempo fa si era pensato addirittura di fare uno stoccaggio di CO2 in forma libera nei fondali oceanici, perché a quelle condizioni di pressione se ne rimane ferma lì dov'è. Questo poi è stato scartato per una serie di altre considerazioni. A questo punto noi ripetiamo questo tipo di processo, ma all'interno di una capsula sigillata, in modo che abbiamo delle garanzie molto più elevate nel tempo, nell'ordine di migliaia di anni. Quindi la CO2 liquida è più pesante dell'acqua, resterebbe lì? Esatto, e soprattutto a quelle condizioni di temperatura e pressione si formano degli idrati, certo. Quindi diventa quasi un materiale quasi solido, e in questo modo non viene rilasciato. Però lo stesso, l'idea che sia qualcosa di non confinato, è chiaro che spaventa un po', certo. E alla fine è stata un po' accantonata questa tecnologia. Senta, immagino che poi la scelta delle varie metodologie di stoccaggio dipenderà molto da quanto costano. Ecco, avete fatto delle valutazioni di costo? Perché anche pompare a 2 km o 3 km o 4 km di profondità la CO2 ha dei costi. Allora, noi abbiamo fatto delle analisi di costi, analisi di scenario, quindi diamo delle forchette, minimo e massimo, condizione ottimale, condizione peggiore. Abbiamo pubblicato un articolo, quindi sono dati di pubblico dominio. Abbiamo trovato un valore medio intorno alle 18 dollari per tonnellata di CO2 stoccata, con un range che va da 12 a 30. È chiaro che questi costi possono sembrare elevati, anche perché questo è solo il costo di stoccaggio, non c'è il costo di cattura, che certo. Ahimè è ancora più elevato, ma va visto in prospettiva in funzione di quanto costerà in futuro emettere CO2, quindi quanto sarà la carbon tax che inevitabilmente dovrà essere implementata, e quando i costi supereranno questi costi stimati da noi, ecco che questi processi diventeranno competitivi per chi vuole decarbonizzare. Va bene, allora grazie professor Mario Grosso. A voi, buona serata a tutti. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori, che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it.